Allora, Carlo Chiericoni abbiamo proprio chiesto di raccontarci e di farci capire e informarci di app che permettono di prendere sonno, svegliarsi nel momento giusto, risvegli più dolci. Che cosa c'è di buono e di utile? Esattamente, ce ne sono tantissime in realtà per quanto riguarda il sonno. Diciamo che si parte da quelle più classiche, che sono quelle che generano i suoni rilassanti, o i Come rumori abbiamo appena bianchi, sentito. esatto, che aiutano ad addormentarsi. Ce ne sono anche alcune, per chi conosce l'inglese, con le voci di alcuni famosi specialisti, come Glenn Harrods e Andrew Johnson, che con dei comandi specifici di voce aiutano all'autoipnosi e quindi ad addormentarsi velocemente. Straordinario. Un'altra cosa molto interessante, che è stata sviluppata da un professore di psicologia dell'Università dell'Hertfordshire, dopo 12 mesi di studio, è un'applicazione che si chiama Dream On, che promette di influenzare i nostri sogni. Addirittura. Che In pratica si succede? lancia l'applicazione, si sceglie il sogno che uno vuole fare e l'applicazione e il telefono viene messo sul letto. Attraverso i sensori di movimento, il telefono si accorge quando noi siamo in fase REM ed inizia a generare dei suoni che dovrebbero influenzare il tipo di sogno che noi stiamo facendo. Quale altro suggerimento ci vuoi regalare? Allora, c'è un'altra app molto carina che si chiama MotionX Sleep, Sì. che utilizza anche questa i sensori di movimento del telefonino per monitorare il nostro sonno durante la notte. Quindi si accorge quando noi siamo in fase di sonno profondo, leggero, e ci cerca di svegliare nel momento migliore la mattina. Ci dà anche tutte quante le statistiche di come abbiamo dormito, quanto ci abbiamo messo ad addormentarci, quanto abbiamo dormito in fase profonda e così via. Ma la cosa carina che fa questa applicazione è che parte anche dal fatto che per fare un buon sonno bisogna anche fare una certa attività fisica durante il giorno. Perfetto, questo sì che mi piace. E allora? E allora ci fa un monitoraggio della nostra attività fisica, sempre attraverso i sensori di movimento, si accorge quanto noi ci muoviamo e ci esorta a muoverci quando siamo troppo sedentari.